Quindi perché dell'iniziativa? Io ho pensato che è l'emergenza quello che ci ha spinto a pensare ad una serie di incontri che fossero finalizzati a cercare di fare un po' di chiarezza in quelle che sono le tante incertezze. E principalmente si pensa ad una serie di incontri, di cui questo dovrebbe essere il primo, che metta insieme le varie forze che lavorano all'interno della scuola, che lavorano per la costruzione della scuola, e quindi non essere più antagonisti, cioè il dirigente, i docenti, il personale amministrativo. Qui io oserei dire siamo tutti nella stessa barca. E dobbiamo lavorare tutti quanti con un unico fine, che la formazione, perché noi siamo responsabili della formazione di alunni, di ragazzi, quindi ragazzi la cui età va dai 5, dai 6, anzi parliamo di scuola dell'infanzia, quindi dai 3 anni fino ai 18, siamo tutti responsabili, mettiamoci tutti insieme e lavoriamo tutti insieme. Pensando all'emergenza, io avevo un po' fatto un elenco delle cose che fino ad ora ci sono capitate, dico capitate tra capo e collo, scusate questa espressione che forse non è molto felice, dal quel benedetto 13 luglio 2015 fino ad oggi. Partiamo con il comitato, e che sono tutti quanti all'interno della 107, un unico articolo che è l'articolo 1 con, non ricordo bene quanti comma, sicuramente più di 225, 226. Partiamo con il comitato di valutazione dei docenti e valorizzazione del merito. Voglio ricordare i commi, dal comma 126 al comma 130, l'articolo 1 della 107 del 2015. Non sto qui a dire cosa è successo, che periodo frenetico è stato, riunioni, incontri che ci sono stati a livello di ogni categoria, la categoria docenti, categoria dirigenti. È bene che questi incontri li facciamo un po' insieme. Cosa ha significato? Bonus, ed è indubbia, ed è indubbio il valore, cioè che il bonus è un salario, è salario accessorio, e come tale, così come sostiene fin dall'inizio l'FLC, va contrattato. Oggi tiriamo le somme, alcuni seguendo le indicazioni della FLC, ma anche di qualche altro sindacato, però insomma in modo molto meno forte, qualche altro sindacato confederale, ha contrattato le somme. Innanzitutto si è partiti da delibere, quindi del collegio docenti, perché il collegio docenti è l'organo che ha diritto di decisione per tutto quello che è la didattica, per cui è il collegio docenti che deve deliberare per le commissioni che poi vanno a lavorare, per le commissioni, per i gruppi di lavoro, insomma chiamiamoli come vogliamo, ma per quelle persone che andranno poi a lavorare per il miglioramento dell'offerta formativa, passando poi a un certo punto dalla contrattazione all'intesa. Allora, chi ha operato, insomma come me, come tanti che abbiamo operato in questo modo, oggi siamo abbastanza tranquilli nell'erogazione del bonus, e come è stato, cioè come abbiamo operato. Colleghi, sono stata avvicinata a colleghi che non hanno operato nello stesso modo, ma insomma un po' in questo clima di confusione, certamente non per cattiva fede o perché si pensasse di avere un potere che non c'è, meno male che non c'è, ci sono responsabilità di portare avanti la scuola, ripeto, mi ripeto, insieme agli altri. E chi ha operato invece non seguendo purtroppo questa linea, insomma oggi sta un po' in difficoltà e mi chiede ma come faccio, perché? Vabbè. Ancora andiamo avanti, e quindi gli ambiti territoriali e la chiamata diretta, un'altra emergenza, ne ha parlato prima Mario. Il comma 79, sempre l'unico articolo 1, che è la legge 107 del 2015, scusate, ma sta cosa mi ha colpito molto, insomma, articolo 1, tanti comma. Io all'inizio pensavo, questa è una riflessione che facevo stamattina in macchina con la collega, pensavo che fosse una legge, la 107, un po' confusionaria, è fatta d'arte per poter poi creare un sistema di controllo sulla scuola pubblica, un sistema di, sì, di controllo, insomma, sulla scuola pubblica, e di versare nella scuola pubblica tutto quello che poi, vedremo dopo, sono i compiti ora dell'ATP, del LUS, insomma. È molto strano, in effetti è ben costruita. E quello che mi ha colpito molto quando ho letto, insomma, la 107, senza oneri a carico dello Stato, senza oneri a carico dello Stato. All'inizio, insomma, tutte le cose che abbiamo letto non erano tanto chiare, ora mano a mano la matassa si sta dipanando, sta diventando, insomma, tutto un po' più chiaro. E quindi abbiamo gli ambiti con la chiamata diretta. E che è successo? Siamo stati comunque... scusate, insomma, sono un dirigente, per cui, insomma, bene o male, con un po' di... Siamo stati chiamati sceriffi, che oramai noi avevamo più potere. Ma anche la stella. Eh no, io scelgo la stella. No, lo sceriffo, insomma, ci tengo molto, perché essere capo è stato sempre una mia prerogativa, cioè ho sempre voluto essere un capo con la stella, insomma, con un cappello. E quindi si è parlato di discrezionalità e ancora una volta di potere, ma scusate, quale potere? Soltanto, ripeto, responsabilità, è una responsabilità che non è tutelata da nessuna norma di legge. Ci siamo sentiti nudi, va bene? Rispetto, io non ho partecipato alla chiamata diretta, io non l'ho fatta, io ho detto no, scusate, lascio questa cosa all'ufficio scolastico. L'ho detto già l'altra volta nell'altro incontro, lo ripeto, sono contenta, mi sono liberata, vediamo l'anno prossimo, insomma, che succede. Ancora per l'emergenza c'è la valutazione del dirigente scolastico, ne ha parlato Mario, dai commi 93-94, ripeto, sempre articolo 1 della legge 107-2015, e quindi con le reti di ambito e di scopo. Io sono scuola capofila dell'ambito 25. Volevo entrare dentro il processo, è stata una scelta anche questa molto sofferta, però ho pensato che se c'è un processo che presenta delle difficoltà, delle incognite, tante incognite, allora io voglio essere dentro il processo e voglio capire, è nella mia indole, insomma, cercare di capire un po' le cose come accadono. E mi collego un attimo a quello che ha detto Mario, insomma, poche cose. Lui ha detto addirittura questi ambiti territoriali che sono stati formati in modo assurdo, e quindi che c'entra con le reti, certo, perché poi le reti di ambito sono state fatte all'interno di ogni ambito, e c'è l'ambito 24, non si capisce, di cui fa parte Angri, che è stato associato poi ad Agostina Amalfitana, scuole di stampa, insomma, territorio diverso. All'ambito 25, di cui faccio parte io, invece c'è Scafati. È stato tutto un po' strano, quindi si pensa che le cose sono state fatte, insomma, senza ragionarci tanto e senza una logicità, quindi che ha guidato, diciamo, questa Costituzione. Insomma, ci so che ci sono tanti altri ambiti, oppure ambiti con 46, 47, 50, 60 scuole, ambiti che, boh, chissà perché, per magia hanno 24, 25 scuole. Anche questo, che poi non parliamo del Cilento, parliamo sempre dell'ambito 24. Angri, sono 24 scuole, il mio ambito sono 46, quindi la gestione poi diventa anche un po' più difficile. E voglio solo ricordare, sempre per ricordare l'emergenza, la cronologia. Allora, siamo andati a firmare per questa rete di ambito. A un certo punto abbiamo avuto una convocazione dall'ufficio scolastico, e qui parliamo della Campania, di un'emergenza che proprio è peculiare della Campania, e chi, insomma, noi che siamo nella scuola sappiamo che l'emergenza oramai ci guida, questo affannarsi a dover rispettare delle date, delle scadenze che, insomma, ci vengono imposte, ma che non hanno nessuna logica. Questo è giusto. Siamo chiamati per questa conferenza di servizi, la prima è stata convocata dal direttore scolastico regionale, come è giusto che sia, insomma, per poter scegliere, eleggere all'interno di ogni ambito una scuola capofila. L'ultima scuola capofila, che è stata nella provincia di Napoli, è stata scelta, è stata nel 27. Nel frattempo però il 28 c'era una conferenza, un incontro con la Bono, che a questo proposito, insomma, in quell'incontro ci ha detto: guardate, le reti si riempiono di una sola risorsa economica per ora, che sono i fondi legati alla formazione, poi dopo stop, basta, non si sa come andrà avanti, se ci saranno fondi per tutto, non si sa niente, quindi ci ha parlato della formazione. Bene, il 28 ci siamo visti, ma il 27 sera, nel frattempo alle 8:17 PM, perché questo è l'orario che viene riportato sulla casella di posta elettronica, a noi Scuola Capofila di Ambiti è arrivata una comunicazione solo alle Scuole Capofila di Ambiti, che per il 31 avremmo dovuto comunicare all'ufficio scolastico regionale, quindi al direttore generale, la scuola Polo per la formazione. Lunedì 2, festa. Siamo andati a questa conferenza, insomma, e ho evidenziato che certamente la scuola Polo non poteva essere una scelta arbitraria della scuola Capofila, ma doveva venire fuori da una conferenza di servizio, e che i tempi che ci erano stati imposti non erano tali da poterci consentire di convocare una conferenza di servizio, insomma, le scuole del variante, insomma, per poter poi procedere nel modo più democratico possibile. E quindi ci è stata data una dilazione dalla Bono, che ha telefonato al Ministero in quel momento e ha detto: guardate, ufficialmente non possiamo fare niente, però ufficiosamente diciamo che il direttore scolastico dovrà comunicare i nominativi il 7 di novembre, e quindi insomma un po' di tempo ce l'avete, per cui in fretta e furia abbiamo nominato queste, come abbiamo convocato queste conferenze di servizio, e siamo andati avanti. Io vedo che Fiorella vede le orari, devo dire. No, vabbè. E comunque con queste Mario diceva un'altra cosa, che spesso la scuola di ambito, la scuola Polo, insomma, cioè, nell'idea del ministero era quella che coincidessero scuola di ambito, scuola Polo. Io personalmente, come me, insomma, altri colleghi, che poi abbiamo un WhatsApp, e meno male che c'è, insomma, siamo in contatto, abbiamo deciso che dovessero essere due scuole diverse, anche per un confronto, per cui io personalmente nell'ambito 25 non sono scuola Polo per la formazione, insomma, il liceo scientifico di Roma, insomma, non è una notizia, e però questo rischio c'è, quindi di concentrare poi tutto nelle mani di alcune scuole, ma è anche come responsabilità di sapere dire: ma cosa andiamo a fare come scuola di ambito, cosa saremo chiamati a fare, quali sono le nostre responsabilità, qual sarà il nostro lavoro, con quali risorse. Ancora Mario evidenziava l'importanza che ogni ambito dovesse avere, comunque dovesse essere regolato da qualcosa. Noi stiamo pensando ad un regolamento, questo un regolamento interno, che per ora sarebbe un po' costruito su quasi niente, però perlomeno individuare i vari gruppi, le varie commissioni che devono lavorare all'interno di questo regolamento. Regolamento che in Emilia Romagna, l'ufficio scolastico, perché noi siamo l'emergenza nell'emergenza a Napoli, cioè in Campania. L'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna ha elaborato, magari chiaramente su conoscenze e su basi che sono diverse da quelle che può avere una scuola capofila di ambito, e quindi lo ha concordato con i vari ambiti. Poi i vari ambiti questo regolamento lo hanno adottato, lo hanno fatto proprio, lo hanno anche magari modificato, però si è partiti da una base, da un regolamento che è stato comunque concordato tra l'ufficio scolastico regionale e le varie scuole. Noi in Campania questo non è ancora avvenuto, dal 27, dal giorno in cui è stata scelta l'ultima scuola di ambito, stiamo ancora aspettando una convocazione richiesta dall'ufficio scolastico regionale, insomma, per dire: vabbè, insomma, vogliamo lavorare, cosa dobbiamo fare. In ogni caso, io voglio concludere con ricordando, cioè ho letto della FDC una nota sulle reti, e qual è il rischio? Il rischio è quello, sono fortunata perché sono intervenuta dopo Mario, il rischio è quello che la scuola, che dovrebbe essere un centro di cultura, si sta trasformando in un centro di servizi amministrativi. Un centro di amministrazione, quindi si perde di vista quella che è la formazione, la cultura, e quindi noi andremo a lavorare su che cosa. Oltretutto mettiamo insieme le risorse umane, pensiamo alle risorse umane, a parte insomma le risorse economiche, dove stanno, non si sa, perché ripeto, si sa solo che ci sono, ci saranno delle risorse legate alla formazione, dopodiché punto, ma le risorse umane, ma come le varie scuole potranno condividere docenti, assistenti amministrativi, personale altro, se non attraverso e quindi decisioni che scaturiscono da incontri, da delibere degli organi collegiali, ma anche da incontri che vengono fatti in sede di contrattazione, dove vengono prese delle decisioni, quindi sul modo di procedere, di lavorare e di metterci insieme per cercare di far funzionare la scuola. Grazie.